Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Il tema dell'evasione fiscale, male endemico del nostro paese che sottrae risorse all'economia per non meno di 120 miliardi l'anno, secondo le recenti stime dell'Ufficio Studi di Confindustria, è tornato con forza all'attenzione delle forze politiche, del governo, dell'opinione pubblica, grazie al messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani la sera dello scorso 31 dicembre. Secondo uno studio recentissimo, di pochi giorni addietro, di Confindustria, nel 2015 l'evasione fiscale contributiva in Italia ammonta a 122 miliardi di euro. 122 miliardi, vuol dire 7,5 punti del prodotto interno lordo. Lo stesso studio calcola che anche soltanto dimezzando l'evasione si potrebbero creare oltre 300.000 posti di lavoro. Gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneggiano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero. Ma dove si annidano le radici dell'evasione fiscale? In che misura questo fenomeno è da attribuire alla nostra scarsa etica civile? Dove vanno ricercate le origini di scelte di politica economica che in qualche modo hanno contribuito, per così dire, a creare le premesse perché questa autentica piaga nazionale trovasse terreno fertile per attecchire e svilupparsi? Secondo i principali esperti della materia, occorre tornare indietro nel tempo, almeno fino all'inizio degli anni 70 del secolo scorso, quando dopo alcuni anni di ricognizione e di studio affidati alla commissione presieduta da Cesare Cosciani, vide la luce la riforma fiscale che tuttora, pur con le modifiche introdotte successivamente, governa la struttura dei nostri principali tributi. La struttura del sistema tributario italiano, al momento dell'entrata in vigore della riforma del 1973, risaliva nei suoi elementi portanti alla seconda metà del secolo precedente. A un'imposizione generale sul reddito, suddivisa in imposte sui redditi dei terreni, dei fabbricati urbani, sulla cosiddetta ricchezza mobile e sui redditi agrari, si affiancavano un'imposta complementare e una serie di imposte sugli affari e sui consumi. Con la riforma del 1973 nascono l'IRPEF e l'IVA e viene disposto l'obbligo per ogni contribuente di presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Comincia in quegli anni ad affermarsi la politica dei condoni, prassi che ha prodotto danni ingenti all'intero sistema fiscale, alimentando la crescente disaffezione dei cittadini nei confronti del fisco. Fenomeno strettamente connesso all'evasione, che accompagna la nascita della moderna struttura dei tributi. Fenomeno che trova fondamento in alcune caratteristiche strutturali dell'economia italiana, in particolare nell'ampiezza della quota di attività produttive svolte da unità di piccole dimensioni. Per i lavoratori dipendenti viene introdotta la ritenuta alla fonte. Per il mondo del lavoro autonomo si susseguono dagli anni 70 in poi strumenti di accertamento forfettario e presuntivo del reddito rivelatisi inefficienti e spesso iniqui. Il tutto in presenza di un alto livello della tassazione e della moltiplicazione degli adempimenti tributari che alimentano l'attitudine ad evadere. Anche il cinema ci aiuta a raccontare questo fenomeno con l'arma dell'ironia e della comicità, come nel caso del film del 2012 di Alessandro Capone E io non pago, l'Italia dei furbetti. Io non pago il fisco, io non pago o fallisco, io non pago. Allora, per entrare un po' più sull'argomento, ci siamo fatti aiutare da un esperto, espertissimo della materia, il professor Antonio Pedone, che ringraziamo. Buonasera e buon anno, professore. Buon anno a tutti, grazie. Allora, parliamo della riforma del 73. Effettivamente è lì che vanno ricercate un po' le origini, se vogliamo, anche di scelte politiche, che in qualche modo forse hanno, come dire, creato le premesse per questo fenomeno. È corretta questa interpretazione? Corretta. Va detto però che si aggiungeva ad un aspetto rilevato da molto tempo dagli storici, e cioè che sin dall'Unità d'Italia c'è c'è stata una particolare diffidenza verso il fisco e verso lo Stato in generale per le modalità con cui è avvenuta l'unificazione. E basti pensare che Einaudi stimava che ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, diciamo già nell'Ottocento, l'evasione raggiungeva circa il 50% del PIL. E quindi c'è questo fatto un po' storico della diffidenza verso lo Stato. Però l'aspetto, sotto il punto di vista aspetto tecnico, certamente gli effetti della riforma sono stati quelli che più hanno dato luogo a questa diffusa forma di evasione e molto estesa e profonda. Perché? Con la riforma ci sono stati due fenomeni quantitativi eccezionali sia nella nostra storia tributaria sia nei confronti di tutti gli altri paesi industrializzati. Il primo è un fortissimo aumento di pressione tributaria. Sì. Tra il 75 e il 90 e poi praticamente oggi la pressione tributaria in Italia è aumentata di circa 18 punti di PIL. Contemporaneamente, per esempio, si è ridotta lievemente negli Stati Uniti e nel Regno Unito e aumentata negli altri paesi in misura molto molto bassa, diciamo, rispetto all'Italia. Quindi è aumentata molto la pressione tributaria generale. In più, questa pressione tributaria, l'aumento, è dovuto in particolare all'accresciuto ruolo dell'imposta personale progressiva. Certo, l'IRPEF. L'IRPEF rappresentava intorno al 4% del PIL fino alla metà degli anni 70, oggi rappresenta più del 12% del PIL, quindi è triplicata. Teniamo presente che nello stesso periodo il peso dell'imposta progressiva personale si è ridotto notevolmente nei paesi ad alta progressività. La Svezia si è ridotto di 6 punti, il Regno Unito di 2 punti, gli Stati Uniti di mezzo punto, cioè mentre negli altri paesi si riduceva, in Italia c'è stata questa esplosione della progressività. In più, professore, oltre a essere aumentata la pressione tributaria, è aumentata in modo diseguale, cioè non è stata certo spalmata su tutti i contribuenti, sì, in modo uguale. Ma c'è un terzo aspetto, e cioè che questo aumento di pressione tributaria concentrata con l'imposta progressiva che è stata accentuata poi dall'inflazione degli anni 70-80 ha riguardato un numero di contribuenti molto elevato, per cui si è passati da 4 milioni di soggetti che facevano la dichiarazione del reddito per l'imposta complementare a 22 milioni, oggi 24 circa, va bene? È chiaro che un sistema tributario di massa va gestito e provoca diciamo comportamenti molto diversi dal sistema tributario precedente. È un sistema ristretto come base, diciamo, di soggetti, un sistema a relativamente bassa pressione tributaria complessiva e con poca, diciamo, pressione tributaria progressiva. Che cosa ha provocato questo cataclisma fiscale, come l'ho chiamato qua? Ha provocato una corsa verso la ricerca di rifugi particolari e quindi un aumento, per esempio, della ricerca di forme di esenzione o di aliquote diverse. Basta pensare a tutti i redditi di natura finanziaria che sono stati esclusi dalla progressività, oppure forme di determinazione del reddito particolarmente favorevoli in molti casi, come per esempio per i redditi di natura catastale, per i fabbricati e per il parte dei terreni, oppure la ricerca di quelle forme di agevolazione costituite da deduzioni dall'imponibile o da detrazioni dell'imposta. Certo. Tutte quelle forme che chiamiamo tax expenditure. Sì, le agevolazioni, gli sconti, diciamo. Gli sconti, cioè che sono un numero molto elevato. Il problema è che questo esiste in tutti i paesi, però nel nostro paese diciamo, l'impostazione della riforma era che la presunzione che in materia di politica tributaria si potessero evitare scelte differenziate. Scelte differenziate prese in maniera trasparente e motivata, per cui c'è stata questa rincorsa e l'atteggiamento di alcuni, chi poteva ha ottenuto delle esplicitamente legali trattamenti di favore, trattamenti differenziati o di aliquoto, di detrazioni, deduzioni e agevolazioni in forma varia, o ottenuto forme di ho utilizzato forme di elusione, cioè di interpretazione legale. Paralegali, diciamo, ci sono quelle legali, quelle paralegali che non sono, e chi è? Non è riuscito a ottenere questo, vedendo che gli altri lo ottenevano, si è rifugiato in parte nell'evasione, che è diventata, quindi diciamo, se uno non vede un po' questa origine un po' dell'evasione, e non vede che un modo, l'unico modo per uscirne gradualmente è quello di procedere ad una forma di, diciamo, scelte chiare, trasparenti e motivate, per cui ci sono trattamenti tributari differenziati e anche, diciamo, contrasti all'evasione differenziata. Oh, professore, abbiamo finito il nostro tempo, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa sera. Grazie tante, arrivederci. Grazie.